stava procurata a poco non l'ha voluta. E a chi fa già le 3.000? No, a chi dice? Lui diventa subito quello, ma lo pisa e si disturbava. Fatto. Sì. Già, facciamo una ricerca adesso e buscavamo qualcuna buona, nuova, che faccia i piatti, che faccia tutto, deve fare. No, grazie, sì, sì. Io non volevo mandare a Maria De Filippi, ma lo volevo andare. Io volevo mandare a Buda Maria De Filippi, non volevo andare, Antone. La dice di voi che la presenteggio, ma non so se non si può pulire, che si può far bruciare sopra. Aspetta, Gringhella! Ci sono. Chi 19 in FM. Cosa di cose. come si chiama Scooby, dove vai, dove è che mi hai messo di lì? Ma l'hai sentito la sorella? Grazie pure una, adesso te la stanno in culo. Michael. signora. Ma di là a parte il nord Sardegna Italia chiama Turchia. Mexico, ci sono 10 armi.